Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko su 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da via Zanardi in Bologna, nonché potete ascoltarci anche sul web scaricando gratuitamente l'apposita app che trovate sul nostro sito, appunto radiocittafujiko.it. E Città Fujiko Live Club, la trasmissione che ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 mi fa ascoltare musica dal vivo, registrata dal vivo, di ogni epoca e di ogni genere. Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità e anche oggi ne abbiamo una delle prime novità di questo 2024, anche se in realtà la band che è titolare di questo Live in Caen, scusate la pessima pronuncia del mio francese, è una band datatissima, infatti è in giro dal 1973, anno in cui il cantante armonicista Libri Lowe e il chitarrista Wilco Johnson fondarono questa band chiamata Dr. Feelgood. E la carriera dei Dr. Feelgood, si può dividere in tre parti in pratica: quella con Wilco Johnson, che se ne andò dopo un paio di albums, e per cui Libri Lowe, il cantante, prese in mano la situazione, fino al 1994, quando purtroppo Libri Lowe ci ha lasciato, è morto. Purtroppo per lui, già che è morto anche lo stesso giorno in cui morì Kurt Cobain, per cui tutti hanno scritto pagine e pagine e pagine su Kurt Cobain e nessuno ha mai considerato il povero Libri Lowe. Comunque, dopo un anno di sbandamento, Robert Cain arrivò a sostituirlo e i Dr. Feelgood sono tuttora vivi e vegeti, anche se un po' datati. Quindi a questo punto non ci sono membri originali, ma comunque la band va avanti sempre nello stesso filone musicale, che è quello del pub rock, un sottofilone, sarebbe meglio dire, una serie di bands che arrivarono negli anni 70 al proscenio e che suonavano appunto nei pubs, per cui sono quelle band che facevano grandi classici che magari pochissima gente considerava, se non alla quarta o quinta pinta di birra, nel quale poi ci si univa alla band a fare i cori per questi pezzi famosissimi. Infatti anche questo Live in Caen sono 20 brani, molti dei quali sono delle covers dei pezzi veramente conosciutissimi, e anche il brano che ci andiamo ad ascoltare è una cover ed è stato registrato, come dicevo, come dice il titolo di questo dischetto, a Caen in Francia, esattamente in un locale lei che si chiama le BBC Erwin St. Clair, più o meno naturalmente, già con l'italiano dei problemi, con l'inglese non ci pensavo neanche, figuratevi il francese. Il tutto viene dalla Normandia naturalmente ed è stato registrato il 20 ottobre del 2022. Il pezzo si chiama If My Baby Quits Me, Dr. Feelgood. Se la mia ragazza mi lascia, dicono il Dr. Feelgood in questo brano che, lo ripeto, si chiama If My Baby Quits Me, lo ripeto in inglese, è il titolo originale. Il tutto tratto da questo dischetto Live in Cayenne, ultima prova discografica dei Dr. Feelgood, un po' raffazzonati non è il termine esatto, è un po' rabberciati, nel senso che appunto di membri originali non ce n'è più manco uno, e comunque loro continuano sullo stile musicale che li ha sempre contraddistinti, che i critici saccenti denominano pub rock. E come vi dicevo, questo album è stato registrato a Caen, in Normandia, nord della Francia, e in questa prima parte della trasmissione ci ascolteremo un po' di cose registrate in Francia. Tre avvertimenti. Allora, il primo è che chiaramente quasi tutti i brani saranno registrati a Parigi, perché poi Parigi è un fagocitatore di tutte le cose francesi. Secondo, siccome ci sono tantissime cose registrate in Francia, che è un paese molto più rock dell'Italia, quest'oggi ci ascolteremo solo artisti e gruppi che iniziano con la A e la B. una scelta pure questa. Terzo, per una mia personale malattia, gli artisti non sono per cognome e nome, ma per nome e cognome. Infatti, secondo me, voi non direte mai Popovic Ana, ma Ana Popovic, che viene fra un po', oppure, per dirla all'italiana, non direte mai Celentano Adriano, ma sempre Adriano Celentano. Per cui non vedo perché gli artisti debbano essere catalogati per cognome. Questa è un'opinione personale, ma ve la beccate, perché qui comando io, come si suol dire. Ma a parte gli scherzi, iniziamo con una band che definire multinazionale è un po' restrittivo. Infatti, pur essendo accreditata come svedese, nel 2011 si formò negli Stati Uniti con una cantante effettivamente svedese, Ellie Larson, e una bassista che attualmente invece è passato alla chitarra, che si chiama Zach Anderson e che è americano. Poi si sono trasferiti appunto in Svezia, hanno assoldato un chitarrista francese che poi un paio di anni fa ha lasciato la band, e continuano loro due circondandosi di musicisti solitamente svedesi. È per questo che poi la band viene accreditata come svedese. Hanno fatto due live albums molto belli e anche un extended play registrato a Rock Palace in Germania, ma a noi interessa Parigi, e infatti l'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Lady in Gold Live in Paris. È stato registrato al Trianon, nella capitale francese, il 30 ottobre del 2016, e ci andiamo ad ascoltare un brano che si chiama High Class Woman, con un'introduzione che condivido appieno da parte di Ellie Larson. Loro si chiamano Blues Pills, il brano invece è High Class Woman. I see a lot of fine, beautiful women in the crowd. A lot of high-class women here. This next song is to you girls. We'll be right back. ghost pass by, and I don't think about you, about what you do to me, babe, what you make me wanna do. Morning or night, I'm in your possession. Oh, I try any way I can to get your attention. You're my one and only taboo, okay? You're my latest fashion. You're an institution of cool. Oh, no doubt about it. Make me wanna want you, make me wanna care, make me wanna need you, almost night and day. I've got a confession to make, and I'm letting you know, if I ever get my hands on you, baby, I'll never let you go. You're my second nights of labor, oh, you're my latest fashion. You're an institution of cool, no doubt about it. Sudden feelings for you, I need to comprehend. I don't wanna let you go, I don't ever wanna leave. Oh, you are know you're preaching, yeah, that's what I believe. You're my seven nights of flavor, oh, you're my latest fashion. You're an institution of cool, no doubt about it. In base a quello che ho detto pochi minuti fa, questa non è Popovic Ana, ma è Ana Popovic, detto come vuol detto. Viene da Belgrado in Serbia, anche se oramai vive stabilmente negli Stati Uniti, è in attività. Pur essendo molto giovane, da 30 anni, ed è una grandissima chitarrista cantante che vedemmo nel 2008 al Castel San Pietro in Blues Festival, si ricorda, almeno io personalmente lo ricordo sempre con tanto piacere. Live for Live è il terzo album dal vivo di questa cantante, che si fa accompagnare da una band che vede molti italiani nel proprio organico. E questo album è stato registrato al Festival di Guitar S a un posto stranissimo, si chiama Yuzundun o qualcosa del genere, il 2 novembre del 2019. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Love You Tonight. Dopo queste due escursioni dai territori anglo-americani arriviamo invece a Northampton in Gran Bretagna, dove nel 1978 si formarono i Bauhaus, che sono tuttora in attività malgrado si siano divisi e riformati ormai un'infinità di volte. In the Flatfield è il loro primo album e quella che ci andiamo ad ascoltare da un 12 pollici in vinile di ormai tanti anni fa è proprio la title track di quel disco. È stato registrato in un locale che si chiama Le Rose Bonbon a Parigi il 3 dicembre del 1981. Loro sono Bauhaus in the Flatfield. Questo album si chiama Your Mother Should Know, Brad Mehldau Plays the Beatles. In realtà l'ultimo brano, che è quello che ci siamo ascoltati, non è dei Beatles, ma questo l'avrete capito sicuramente, è di David Bowie, si chiama Life on Mars, e Brad Mehldau è un pianista che arriva da Jacksonville in Florida, ma che non ha niente a che fare con il Southern Rock americano. Lui è un grande jazzista, molto molto bravo, ha fatto un sacco di album sia a proprio nome che come collaboratore. E questo Your Mother Should Know è stato registrato al Philharmonie de Paris il 19 e il 20 settembre del 2020 ed è veramente molto intrigante. Sono 10 brani dei Beatles più questa cover appunto di Life on Mars. Un gruppo che viene da Londra, si è formato nel 1994, si chiama Archive, e non sono molto conosciuti, credo, dalle nostre parti, ma sono molto famosi in Europa, nel nord Europa e soprattutto in Francia. Loro sono passati dall'iniziale mix fra elettronica e trip hop a una musica progressive che li accomuna, secondo me, molto ai Porcupine Tree. Diciamo, sono talmente famosi in Europa, fra Francia e Belgio, che i 7 album live che hanno fatto, 7 ho detto, sono tutti registrati in Francia o in Belgio. Questo in particolare che ci andiamo ad ascoltare si chiama Live the Zenith, è stato registrato chiaramente nell'omonimo locale parigino il 20 gennaio del 2007. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è tutto un programma, si chiama Fuck You. To knock out, see the sin in your grin and the shape of your mouth. All I want is to see you in terrible pain. Though we won't ever meet, I remember your name. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God I can think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. You a scum, and I hope that you know that the cracks in your smile are beginning to show. Now the world needs to see that it's time you should go. There's no light in your eyes and your brain is too slow. Just like anyone else, then you grew and became like the devil himself. Pray to God I can think of a nice thing to say. Take you all day. There's a space kept in hell with your name on a scene, with a spike in a chair just to make it complete. When you look at yourself, do you see what I see? If you do, why the fuck are you looking at me? for tonight. That is all I'm asking for. Take me under your wing. I couldn't take it anymore. I'm so full of fear. May you read a book, tell me how my shadow grows. Won't you, won't you, why won't you stay? My God, beside my bed. That is all I want to know. Questi vengono tuttora dalla Germania, da Münster in particolare. Sono partiti come trio, ma attualmente è rimasto solo Marian Gold, il cantante, come membro originale. Si chiamano Alphaville. Molti di voi ricorderanno i loro grandi hits degli anni '80, Big in Japan, Forever Young, eccetera, eccetera. Questo Stark Naked è stato registrato, l'album live, è stato registrato in diverse occasioni, in diverse epoche. In particolare il brano che ci siamo ascoltati, Guardian Angel, è stato registrato al Locomotive, di non quello di Bologna, ma quello di Parigi, il 19 maggio del 1999. E permettetemi di terminare questa prima parte dedicata a brani registrati in Francia, lettera A e lettera B, con lui, con Bruce Springsteen, che proprio ieri sera ha cominciato il suo tour mondiale, che fra un paio di mesi, tre, porterà qui in Italia per due concerti a San Siro. L'album che ci andiamo ad ascoltare è uno dei suoi tanti album d'archivio, è stato registrato al Palais Omnisport de Paris-Bercy il 5 luglio del 2012 e ce ne andiamo subito ad ascoltare Mr. Bruce Springsteen. I was raised out of Steeler in the swamps of Jersey some misty years ago. Through the mud and the beer, blood and the cheers, I seen champions come and go. So if you got the guts, mister, if you got the balls, if you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take a fair shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's in the Meadowlands, where mosquitoes grow big as airplanes. You're where the blood is spilled, the arena's filled, and giants play the games. Light them up, so raise up your glasses. Let me hear your voices call. Just to come again. Come on. uno dei classici del repertorio dei Dr. Feelgood, scritto dal chitarrista originale Wilco Johnson, e naturalmente non poteva non essere contenuto in questo Live in Caen, che è la novità che vi propongo quest'oggi e che, come da capitolato direi, ha aperto la seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi 20 marzo 2024. E come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e ancora una volta tantissime cose, per cui il criterio di scelta è un brano per ogni decade, e oggi ne abbiamo 6 decadi, vediamo di portarle, come si suol dire, in porto tutte e 6. Anche se in realtà non ci sono brani molto lunghi, comunque iniziamo dal 1964, 6-4. Siamo in compagnia di una band che ha fatto la storia della musica rock non solo britannica, perché quella famosa questa storia che ha dato il via alla carriera di 3 grandissimi chitarristi rock, naturalmente Jeff Beck, Jimmy Page e nonché Eric Clapton. Qui siamo... loro sono stati attivi dal 1963 al 68, poi dopo si sono riformati sotto la guida di Jim McCartney, il batterista, l'unico originale, membro originale della band tuttora, e appunto tuttora sono ancora in giro. L'album che ci andiamo ad ascoltare, non senza prima aver ricordato a proposito che gli Yardbirds nel 1966 furono anche a Sanremo, una cosa abbastanza particolare. All'epoca a Sanremo c'erano gli abbinamenti, suonavano delle coppie, il cantante italiano, che in questo caso era Lucio Dalla, e una band straniera. Solitamente ci furono anche Stevie Wonder, ci furono tantissimi grandissimi musicisti, e in quell'anno a cantare Puff Boom c'erano appunto gli Yardbirds nella versione con Jeff Beck alla chitarra e Jimmy Page al basso. Qui invece abbiamo in azione la chitarra Mr. Eric Clapton, detto anche Slow Hand. Sono 5 live, non sono 5 i brani che sono stati registrati per questo album che si chiama in questo modo, ma perché loro erano 5 appunto, con la punta di diamante di Eric Clapton. Il brano che ci andiamo ad ascoltare appunto da questo album storico è stato registrato al Marquis di Londra il 20 marzo del 1964, ed è una cover, sono praticamente tutte covers di un brano degli Allman Brothers che si chiama Respectable. Fra parentesi, per la cronaca, questo Five Live Yardbirds, che in origine contava 10 pezzi, è stato poi ristampato in CD con l'aggiunta di altrettanti, per cui è sicuramente una cosa molto valida. Ripeto, Yardbirds, Respectable, 20 marzo 1964. This one now, to end the set. She's so respectable. Oh. I'm not afraid of the dark. Thank you very much, thank you. Siamo nel 1964, quindi la registrazione effettivamente non è di quelle proprio d'altissima fedeltà, per usare un eufemismo. Comunque è sempre un documento storico questo Five Live Yardbirds, che ha influenzato tantissimi giovani britannici. E una curiosità, la foto del retro di copertina veramente incredibile, perché i cinque ragazzi, perché erano giovanissimi, degli Yardbirds, hanno appena i capelli appena un po' più lunghi rispetto alla media dell'epoca, ripeto, siamo nel 1964, però sono ben vestiti, pantaloni normalissimi, non jeans, camicia e cravatta, così. E nella copertina, nella prima copertina, la copertina anteriore, sono addirittura con la giacca. Figurarsi quello che venne dopo e quello che c'è tuttora. Comunque il brano era un brano degli Isley Brothers, interpretato appunto dagli Yardbirds il 20 marzo 1964, e si chiama Respectable. Per la serie personaggi che avrebbero meritato maggior successo arriva adesso il signor Graham Parker, che appunto è un grandissimo cantante che purtroppo non ha avuto la fortuna che meriterebbe, per visto che è tuttora in giro. Suona la chitarra e canta con un'ottima voce, è attivo fin dal 1970 inizio. Però fino al 1980 era insieme ai Rumours, la band si chiamava Graham Parker and the Rumours. Poi dopo nel 1980 se ne andò per proprio conto, prima solista anche in acustico, poi dopo affiancandosi a band diverse in tempi diversi. Ha fatto diversi live album, anche questi come il resto della sua carriera, alcuni da solo in acustico e altri con una band in elettrico, e che appunto non gli hanno portato molta fortuna. Ha vissuto per un certo periodo negli Stati Uniti, poi, se ricordo bene, adesso è ritornato in madre patria, ma lui continua a suonare nei piccoli pubs, nei piccoli locali. Qui siamo in un programma televisivo che ebbe un grande successo dal 1971 addirittura al 1988. Si chiamava Old Grey Whistle Test, un programma televisivo nel cui i gruppi suonavano dal vivo, e venivano chiamati per una parte i gruppi famosi e per un'altra parte gli emergenti, fra cui appunto arrivò Graham Parker in quel 1978, in questa registrazione effettuata al TV Theater di Londra, che è poi quello che poi divenne il Perry Theater, il locale che la BBC, l'ente di Stato radiotelevisivo britannico, affittava appunto per registrare concerti o registrare trasmissioni tipo questa che ci andiamo ad ascoltare. Si chiama Old Grey Whistle Test. Il pezzo invece, Graham Parker, registrato il 20 marzo del 1978, si chiama Problem Child. Flying round aimlessly. circles, just like you, playing with your sad curls and tears rolling down your face. Cause you're a problem child, you ain't got any sense. A problem child, you can't find no defense. Just don't work, you're useless, so they said. Yeah, everything you wear, don't think your dreams are made of clay. Stay with them and hope they'll turn to something someday. Don't get wild, they've only got you filed down as a problem child. A problem child, you ain't got any sense. A problem child. Graham Parker live on TV, si dovrebbe dire, un programma televisivo, lo dicevo, che si chiama The Old Grey Whistle Test. Il brano che ci siamo ascoltati è stato registrato nel 1978, esattamente il 20 marzo, siamo ancora sempre in Recorded Today, e si chiama Problem Child. Con gli anni 80 cambiamo radicalmente location, siamo sulla costa ovest degli Stati Uniti e anche approccio musicale. Questo album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Mutiny on the Bay, Dead Kennedys Live from the San Francisco Bay Area, quindi capite che stiamo parlando di Dead Kennedys, questa grande band che appunto viveva, partito da San Francisco, vissuto sempre a San Francisco, e è stata attiva dal 1978 al 1986. Poi tre musicisti, poi vi spiegherò naturalmente, hanno ripreso la band, hanno riformato la band insieme a un altro cantante, perché il cantante originale, che secondo me poi era il fulcro della formazione, ma non solo secondo me, si chiama Jello Biafra, il cantante non ne volle sapere, anzi ci furono dei grossi problemi legali legati al nome della band, e poi ci furono discussioni, litigi fra appunto i tre musicisti e Jello Biafra. Jello Biafra, che in quel periodo, fra parentesi, nel periodo di scioglimento della band, si candidò a sindaco di San Francisco, ottenne anche diversi voti, naturalmente non all'altezza dei politici di professione, ma buona parte di un certo tipo di gioventù di San Francisco, ma non solo, anche la gioventù votò per lui. I Dead Kennedys sono stati sempre molto coinvolti politicamente, i loro testi sono molto politici, molto aggressivi anche dal punto di vista delle parole, e ai loro concerti c'erano sempre dei gran casini, a dire il vero. Questo Mutiny on the Bay è stato pubblicato nel 2001, in un momento in cui Jello Biafra e gli altri tre musicisti si erano un po' accordati, ne sono usciti due più o meno in quel periodo lì, ne avevano promessi altri, poi pare che abbiano litigato di nuovo e non se ne è fatto niente. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato all'Elite Club di San Francisco nel 1982, ed è un classico proprio della parte politica dei Dead Kennedys, è un inno contro Pol Pot in particolare, lo ricorderete tutti, e i dittatori in generale. Si chiama Holiday in Cambodia, Ted Kennedy's, 20 marzo 1982. Una versione molto particolare di un classico della musica rock, si chiama Hey Joe, spero l'abbiate riconosciuta, anche se effettivamente era ben camuffata in modalità jazz, da questo trio che è definito Jazz Fusion: John Medeski alle tastiere, specifico al pianoforte, Bine Martin alla batteria e Chris Wood al basso, che alcuni di voi ricorderanno anche insieme a suo fratello in una band che si chiama Wood Brothers. Noi li vedemmo, questi tre che si chiamano Medeski, Martin e Wood, come loro appunto, li vedemmo insieme a John Scofield al Duse nel novembre del 2014 in occasione del Bologna Jazz Festival, e fu un grande concerto. Ma John Medeski lo rivedremo ancora qui a Bologna, stavolta il 13 maggio prossimo, nell'ambito del Paradiso Jazz Festival, ad accompagnare Bill Evans in una serata che si preannuncia molto molto molto interessante. L'album che ci siamo ascoltati e che conclude con questa, si conclude con questa versione di Hey Joe, si chiama Tonic, come il locale in cui è stato registrato a New York City il 20 marzo del 1999, come avete sentito, in maniera acustica. Poi negli altri album, nel corso del prosieguo della carriera, Medeski, Martin e Wood sono un po' elettrificati e Medeski suona principalmente l'organo. Arriviamo al 2006 in compagnia, stavolta finalmente, di un gruppo italiano. Prima dell'esplosione mondiale dei Maneskin, erano sicuramente la band italiana più famosa al mondo. Si chiamano Lacuna Coil, vengono da Milano e sono attivi dal 1994. Hanno questa particolarità del cantante solista sia femminile che maschile, e sono veramente parecchio famosi in tutto il globo terracqueo, come disse la nostra amata Presidente del Consiglio. Hanno fatto tre album dal vivo e alcuni singoli che comprendono brani live, che compreso questo che ho tra le mani. Abbiamo tre versioni dello stesso brano, si chiama Closer, e due brani invece registrati allo State Theater di St. Petersburg in Florida, è un sobborgo di Tampa in pratica, il 20 marzo del 2008. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Heaven's Lie, loro invece si chiamano Lacuna Coil. This next song is going to be the last one for us tonight. We want to thank you once again for being here tonight for our first time here. We appreciate and we love you. Thank you so much. Thank you very much for keeping this music real. This next one is Heaven's Lie. Thank you. We'll do the truth and fair trade, yeah, girl. Sound of the wrong. We are the partners, yeah, yeah, yeah, yeah. I know we will lose the truth and fair trade. Molto apprestati in quel di St. Petersburg, Florida, e Lacuna Coil, il brano che ci siamo ascoltati si chiama Heaven's Lie ed è tratto da un singolo, come vi dicevo prima, che comprende due brani dal vivo registrati in quell'occasione, ma registrazioni di questo concerto si trovano sparse qua e là in tutta la loro discografia. Il brano è stato registrato il 20 marzo del 2006. Ultima cosa, arriva da una band femminile che ci fa riallacciare alla prima parte della trasmissione. Infatti questo album si chiama Live in Paris, è stato registrato alle Chigale, uno dei locali storici della capitale francese, ad opera di questo trio che dal 2019 è diventato un duo, che si chiama Slitherkini. Hanno da poco pubblicato un nuovo album e sono in giro per il mondo, non passeranno per l'Italia credo, però faranno diversi concerti in Europa e nel nord Europa in genere, e questo album appunto è stato registrato nella capitale francese il 20 marzo del 2015. Prima però di farvi ascoltare il brano che è l'ultimo della trasmissione, l'ultimo di Recorded Today, vi voglio ricordare appunto che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo tutti i mercoledì dalle 10.30, tutti i mercoledì o quasi, ogni tanto sgarro, ma comunque tutti i mercoledì dalle 10.30 scusate, alle 12.25, musica live di tutti i generi, di tutte le epoche, dai 103.1 MHz di modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento per mercoledì prossimo, vi lascio appunto in compagnia delle Slitherkini e il brano che finisce questa Città Fujiko Live Club di oggi si chiama Entertain Slitherkini, e naturalmente il tutto registrato il 20 marzo del 2015.